versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana per chi ovviamente non è stato anche con noi stamattina insieme a Alessandro Milano e attenti a noi due. Eccoci qua, sono le 16:30 primi 26 secondi qui a versione di Oscar in diretta dagli studi di Milano, e giornata che direi sui mercati sta facendo segnare i mimi da 11 anni a questa parte del petrolio, perché stiamo più o meno a $36 qualcosa al barile per il Brent è a 34 e qualcosa invece per WTI americano. Insomma, direi che gli scenari di deflazione importata dalle commodities rimangono più solide che mai. Vedremo mercoledì cosa decide la Fed, ma per questo naturalmente vi rinvio a Focus Economia poi dopo con Sebastiano Barisoni. Allora, di che cosa parliamo oggi invece? Ve lo dico per telefonare e darci la vostra opinione all'800 24 0024, lo sapete, per gli SMS 349-238-6666. Parliamo della Leopolda che si è appena conclusa ieri, cominciata venerdì sera la sesta edizione della Leopolda, l'appuntamento annuale di Renzi e dei renziani, quella in cui si è costruito lo storytelling, la mitologia, la mitografia per così dire dell'allora sindaco di Firenze prima che il suo partito gli affidasse la segreteria e la presidenza del consiglio. Ricordate al travagliato inizio di questa legislatura, dopo che Bersani non è riuscito a formare il governo, e però questa versione, che è stata la seconda da che il governo Renzi nell'aprile dell'anno scorso è entrato nella pienezza delle sue funzioni, fa molto discutere per così dire, perché alcuni commentatori vi hanno visto un inizio per così dire di crisi, di rallentamento della capacità innovativa, anche di quella comunicativa, che poi in fondo è la forza, no, di Renzi e del renzismo. Molti articoli sui quotidiani di oggi si sono accentrati poi su una cosa che ovviamente ai media fa molto, tra virgolette, male, come devo dire, fa molto discutere, ma è una specie di reazione, cioè di fronte al fatto che anche Renzi e i renziani facciano la graduatoria dei giornali più negativi, invitando a votare i titoli più negativi e pregiudizialmente ostili al governo, al centro soprattutto tre testate, soprattutto il Fatto Quotidiano, poi ovviamente Libero, il giornale, che non nascondono le loro simpatie verso la destra, ma anche e soprattutto il Fatto Quotidiano, che dei 16 titoli posti in votazione come i peggiori, più pregiudiziali, più sballati, come devo dire, nei confronti dell'operato del governo, era quello che ne aveva di più, 11 su 16. Ma al di là di questo, l'interrogativo profondo viene dal fatto che una critica abbastanza abrasiva è venuta anche all'interno della sinistra e da personaggi che non hanno mai fatto mistero in questi mesi, in questi anni, di essere fortissimamente convinti dei pregi di Matteo Renzi, della sua capacità di individuare nuovi traguardi, anche venendo meno ai riti, per così dire, più tradizionali di quella parte politica che ha una eredità di continuazione ed evoluzione storica, no? Rispetto all'antico PC. Allora, per questo oggi abbiamo deciso, nel chiedere a voi ascoltatori di telefonare dicendo: avete visto questi segni di crisi, soprattutto poi di fronte all'esplosione della vicenda bancaria e di chi ci ha rimesso i soldi nelle banche dopo il decreto di risoluzione del governo due domeniche fa, ma avete visto anche voi, da quello che avete capito dai resoconti in televisione, per radio, sui giornali, un segno di queste difficoltà di Renzi e del renzismo, oppure vi sembra che questa sia un'obiezione pregiudiziale, dei gufi e così via? Allora, per discutere su un piano paritario queste due impressioni, due ospiti che sono uno un ex direttore dell'Unità e un ex parlamentare dei DS e un altro il direttore attuale dell'Unità. Perché? Perché il primo, Peppino Caldarola, che ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio, buon pomeriggio Peppino. Buonasera, buonasera, ciao Oscar. E il secondo, che è direttore dell'Unità, Erasmo De Angelis, un saluto e un ringraziamento anche a lui. Perfetto. Ciao. Perché il primo, Peppino Caldarola, ha scritto un articolo che gli chiedo come primo round tra lui e Erasmo De Angelis di riassumere per chi non l'ha letto. È comparso su Lettera 43 e Peppino Caldarola, in buona sostanza, vi leggo solo il titolo, ma prego a lui di spiegarlo a chi in ascolto, perché il titolo del suo della sua analisi era: la Leopolda ha celebrato la fine del renzismo, sottotitolo: senza idee né facce nuove, Renzi scivola su banche e giornali, così sarà presto asfaltato. Perché Peppino Caldarola? Ma già la Leopolda dell'anno scorso non era stata così brillante, questa di quest'anno diciamo avrebbe dovuto segnare il rilancio, diciamo il cuore oltre l'ostacolo. Viceversa è una Leopolda che appare a me, ovviamente, appare a me, rinsecchita, priva di proposte, e anche priva di proposte soprattutto di dialogo con il paese. Su questa Leopolda si sono abbattuti in fondo la ripetitività del format, la ripetitività dei personaggi che hanno interloquito, sono mancate le novità, mentre altre volte sul piano anche delle presenze c'erano delle novità, imprenditori nuovi e personaggi che emergevano dalla società civile. Poi è stata soffocata da questa storia, che riguarda la banca dell'Etruria, in cui è coinvolto un parente della ministra Boschi. E di fronte a questa vicenda mi è sembrato che lo Stato Maggiore renzista abbia sostanzialmente commesso una serie di errori. Il primo errore, che io reputo molto grave, ed è l'errore di aver fondamentalmente parlato al cuore delle proprie famiglie. Quando si sente il Premier e la sua ministra di eccellenza dare omaggio pubblico alla propria famiglia, cosa che paternamente io capisco, dimenticando che bisognava forse tenere questo per sé, dare omaggio pubblico alle centinaia di migliaia di italiani che sono stati coinvolti in questa vicenda. Tu, Oscar, sai meglio di me che queste vicende hanno un effetto d'annuncio terrificante, possono riguardare pochi correntisti, pochi azionisti, però adesso guardano migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di pensionati, di lavoratori, no? Certo, iniziano a guardarsi i loro portafogli, iniziano a pensare se non sia il caso di ritirare e vendere titoli. Non solo alla grande banca, ma fondamentalmente alla banca del territorio. Certo. Erano questi gli interlocutori principali, invece si sono fatti chiudere in un angolo, rivelando un'incapacità a reagire. Ora parliamoci chiaro, si è statisti nel bello e nel cattivo tempo, si è statisti non solo quando si coglie, come Renzi ha fatto magnificamente, il senso del tempo. Il senso del tempo diceva che una certa sinistra non ce la faceva più, aveva giocato tutte le carte, aveva vinto, aveva perso, comunque una storia era finita. E lì il riconoscimento andava dato, è stato dato, io personalmente l'ho dato. Ma il senso del tempo lo si riconosce anche da una capacità di comunicare il passaggio, perché non puoi radunare delle persone per raccontare il bello che hai fatto. Tutti i governi che hanno fatto questa operazione hanno regolarmente perso, perché mentre l'opinione pubblica chiede all'opposizione quello che fa quotidianamente, l'opinione pubblica chiede al governo quello che deve fare nelle prossime settimane. Per non toglierti tempo, l'impressione è che, finita la partita complicata che la sinistra PD ha giocato male, secondo me, delle riforme istituzionali, sia un po' esaurita la spinta propulsiva. E la squadra attorno a Renzi, mi pare, ed è l'ultimo concetto che voglio consegnare agli ascoltatori, è una squadra ristretta. È una squadra peraltro ristretta anche familisticamente. Neppure De Mita assumeva o portava al governo o nel giro ristretto solo gli avellinesi. Invece noi stiamo assistendo a questa sorta di familismo morale, per cui la squadra del Presidente del Consiglio è una squadra che si muove dentro alcune centinaia di metri della città di Firenze. Un uomo che conquista il potere conquista in senso democratico anche lo Stato, si allarga, chiama le riserve della Repubblica, penetra nello Stato chiamando energie. Non si può vivere sempre come fosse tempesta e assalto, e lo dico in italiano. Altrimenti il modello è quello di Berlusconi, a cui io non paragono assolutamente Matteo Renzi, cioè quello che si sta al governo per continuare a fare diversamente opposizione. Allora, come vedete, argomenti forti, argomentati, e da chi Peppino Caldarola non ha fatto mistero per lungo tempo di essere molto a favore, e devo dire la verità, lui non l'ha detto adesso, ma la conclusione dell'articolo di Peppino Caldarola di oggi è comunque questa, che voglio leggere per evitare fraintendimenti a chi ascolta. Dopo aver concluso dicendo: se gli argomenti della Polda restano questi, questa volta sarà asfaltato lui, cioè Renzi, poi aggiunge a conclusione: ipotesi che io, cioè Peppino Caldarola, continuo a considerare non auspicabili per il bene del paese. Quindi sono critiche pesanti, ma sempre con questo animo in cuore. Allora, Erasmo D'Angelis, il direttore dell'Unità, in che cosa secondo lei questo giudizio di Peppino Caldarola non è adeguato? Cosa non coglie? Ma non coglie quasi nulla, nel senso, intanto poteva Peppino venire alla Leopolda, magari si faceva un'idea della Leopolda e delle varie Leopolde. Ma mi sembra viva in un altro paese, francamente. Probabilmente, guarda, noi siamo stati abituati ad una politica che insomma in qualche modo era fondata sulle liturgie dei partiti, delle correnti, autoreferenziale, subalterna a tutte le burocrazie, subalterna ai rinvii, a tutte le caste, insomma è quella politica che ha prodotto la stagnazione di questo paese. È dalla prima Leopolda che si ripetono le cose che dice Caldarola, e cioè io ricordo Scalfari, no, su Repubblica, che definiva Renzi peggio di Bettino Craxi, liquidava la Leopolda come un'agenda generica, carta straccia, D'Alema che dichiarava: se vince Renzi il centrosinistra è finito. E lo chiamavano l'alieno, la quinta colonna berlusconiana, l'asino scalciante, Silvio Renzi, quello che distruggerà questo paese. Insomma, ogni Leopolda ha avuto, diciamo, questa controreazione, controffensiva. Però alla fine cosa è successo in questo paese? E cosa sono state le Leopolde? Cioè, il renzismo come dire, una modalità di movimento anche generazionale, ma non solo generazionale, che in qualche modo ha restituito alla politica il suo primato, cioè la capacità di decidere, di fare le cose, di produrre risultati. Certo, è stata una progressiva conquista del potere, perché è evidente che chi fa politica conquista in qualche modo partiti, potere. Oggi sono due Leopolde che vedono Renzi al governo e vedono non Renzi in quanto tale, ma il Partito Democratico al governo con il 40% alle europee. Probabilmente, come diceva ieri Renzi, ed è così, se si andrà a votare, diciamo, il risultato sarà quello, no? Perché i sondaggi poi vediamo quelli veri anche noi. Allora il punto qual è? La Leopolda non è un congresso di partito, non è un seminario di partito, non è, diciamo, un gruppo chiuso. Ieri la Leopolda ha fatto il maggior successo di presenze nelle cinque edizioni, cioè quasi 10.000 persone sono arrivate spontaneamente a Firenze, sono state lì per 3 giorni, hanno pagato di persona, hanno, diciamo, assistito a un dibattito, certo qualcuno dice la parata dei ministri, però insomma hanno parlato un paio di centinaia di persone, cioè è... La Leopolda è come dire, un campo aperto, cioè non è un recinto, non è uno steccato, è sempre stata così, non è una camicia di forza, è un'apertura al mondo, all'Italia, è un movimento permanente, perché il motore della Leopolda deve restare sempre acceso, perché l'Italia è un pachiderma, questo è un governo che finalmente fa le riforme, ne infila una dopo l'altra, compresa le riforme, Oscar lo sa bene, ha affrontato per la prima volta il tema delle riforme delle banche popolari, che non voleva nessuno, che non ha mai voluto riformare nessuno, e affronterà adesso il tema della vigilanza, dei controlli. E allora dire che questo governo ha creato il, diciamo, quello che leggiamo ogni giorno, e diciamo questo dramma in corso sui bond, sulla truffa dei bond, è veramente un assurdo. Però questo Calderone, no, però questo Calderone non lo dice. Calderone, no, però insomma, Calderone fa capire, però qui... No, aspetta, Calderone dice, i maestri della comunicazione, dice, beh, leggo testualmente, insomma, senza bisogno che lo faccia lui. Lui dice, Filippo Sensi per primo chiama il comunicatore principale, no? A fianco del Presidente del Consiglio, e dice, beh, insomma, è evidente quello che ci ho detto, bisogna parlare al popolo dei colpiti, proprio per rimarcare che appunto ma i regolatori... Ma ieri Padoan ha incontrato il popolo dei colpiti, ieri Padoan li ha incontrati alla Leopolda, non li ha incontrati, gli ha detto ragazzi, sistemiamo le cose, cioè caso per caso verifichiamo, non vi preoccupate, siamo con voi, cioè il governo è con loro, il governo è chiarissimo cosa Erasmo D'Angelo, direttore dell'unità, replica a Calderone. Adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, sentiamo però la controobiezione poi di Calderone. Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, la domanda di oggi, siamo tornati in diretta, è: Leopolda con inizi di crisi del renzismo, oppure a dirlo si è gufi? Da una parte l'ex direttore dell'unità ed ex parlamentare del DS Peppino Calderone, che ha scritto un'analisi che ci ha riassunto all'inizio qui con noi, dicendo c'è una crisi profonda della percezione e della comunicazione del renzismo verso quelli che Calderone ha descritto come alcuni problemi di fondo, e quindi l'inizio di un esaurimento di una fase. Erasmo D'Angelis, che è anche con noi direttore dell'unità, gli ha replicato: no, non c'eri e ti sei perso l'evoluzione di una roba che non è la corrente di Renzi, è una cosa aperta, fatta apposta per dialogare col paese, e abbiamo parlato anche al popolo dei colpiti, senza nessun imbarazzo, Boschi o non Boschi, delle quattro banche risolte per decreto dal governo. Calderone, cosa non la convince dell'obiezione di D'Angelis alla sua analisi? Ma tutto, praticamente tutto, è l'approccio che non mi convince, perché... Gli argomenti si possono respingere, ma non si possono respingere alla maniera con cui fa De Angelis, e devo dire la tua suprema malizia di mettere uno contro l'altro, no, una persona che hanno diretto. Non è contro l'altro, ci sono due opinioni. Sto prendendo in giro con tutto l'affetto che ho per con due giornali che diciamo hanno la stessa testata, ma non sono due giornali uguali. Noi abbiamo una storia, lui, De Angelis, ne ha un'altra. Diciamo, se vorrei dire una cattiveria, ti potrei anche dire che De Angelis parla a nome dei giovani. Io ho visto le sue foto, insomma, forse si toglie qualche anno. Il problema è che quando ci sono delle critiche, mi posso permettere di dirlo con una certa fermezza, la risposta non è: non avete capito un cazzo. Perché la risposta: non avete capito niente, non ci siete, vinceremo le elezioni, abbiamo fatto parlare i ministri, c'erano 10.000 persone, non è una risposta, non sono delle risposte. Le risposte sono quelli che si chiamano, che Renzi chiamava, i contenuti. Non avete capito niente perché noi dopodomani faremo questo, faremo quest'altro, perché non è vero che abbiamo solidarizzato con papà di Renzi della Boschi, ma abbiamo solidarizzato con centinaia di migliaia di interlocutori, cioè è un altro tipo di approccio. Se l'approccio invece è quello propagandistico, a me va bene, perché figuriamoci, viviamo nella propaganda, totalmente. Poi non mi fa nessuna impressione, tantomeno questo tono supponente, mi fa nessuna impressione. Però io penso che non sia vero, per esempio, quello che dice De Angelis, è quello che ha detto Renzi. Non è affatto vero che loro, allo stato attuale, dico loro, anche se io sarò uno dei votanti loro, avranno lo stesso voto delle europee. Primo, perché quel voto non si è più ripetuto. Poi perché De Angelis non conosce un mondo che continua lui e il suo Dante Caos a disprezzare, che è un mondo fatto di questa strana gente che si chiama popolo della sinistra e che si fa impiccare piuttosto che votare Renzi, soprattutto se i toni sono quelli di Angelis, non avete capito niente, il passato era tutto da rottamare. Il mondo non è nato con Matteo Renzi, è nato alcune migliaia di anni prima. La sinistra in Italia, con tutti i suoi errori, è nata alcune migliaia di anni prima. D'Alema non l'avete rottamato voi. Io ho fatto un'intervista a Massimo D'Alema per un libro che poi è uscito, Nel corso di questa intervista, uscita molto prima che Renzi, diciamo, vincesse la politica, lui mi aveva annunciato il ritiro dalla politica. Non avete, poi la cosa l'abbiamo tolta perché Massimo D'Alema è un guerriero e di fronte ad una richiesta combatte. Ma io ho le registrazioni, non avete vinto niente. Non avete vinto niente. C'è una classe dirigente che bene ha fatto, e io su questo, come tu ricordavi, sono stato d'accordo, pur facendo parte di quella generazione, d'accordo con Renzi, ha fatto il passo indietro. Adesso che è tutto libero, davanti a loro è tutto libero, perché D'Alema non c'è, Beltrone non c'è, no? Ci sono solo, diciamo, quelli di certi anni che vengono dalla storia democristiana, dalla storia... Allora, tu dici, attenti a non perdere il senso di questa cosa per guardarvi troppo l'ombelico tra voi, in un cerchio ristretto. Allora, Erasmo D'Angelis, io ho qui un mucchio di messaggi di ascoltatori, naturalmente non sono un sondaggio, sono solo quelli che interloquiscono, mandano sms, eccetera, eccetera, anche un paio di telefonate, di molti che dicono, guardate, Renzi non si rende conto che con l'Italicum oggi vince 5 Stelle, ma non solo perché c'è la protesta, è un'espressione in qualche modo analoga a quello che c'è in altri paesi europei, perché questo eccesso di sicumera di una cerchia ristretta alla fine attira una parte, è quello che ha spiegato adesso Peppino Caldarola, cioè un pezzo del elettorato di sinistra che si perde, va altrove, ma non ci si riconosce, ma soprattutto anche lettori medi, mediani, che dicono no, ma questa roba è troppo un inizio di storia nuova del mondo, ma insomma che si dice? Sono infondate tutte queste osservazioni secondo Erasmo D'Angelis? Diciamo, è infondata una cosa, quando Peppino dice che siete autoreferenziali, ci avete fatto fuori tutti, c'è un mondo che non... Cioè, mi sembrano cose un po' esagerate, francamente. Il punto vero qual è? Chiudiamo gli occhi. Vi ricordate come eravamo messi 19 mesi fa? Perché questo è il punto, se vogliamo parlare della Leopolda. Come eravamo messi 19 mesi fa? Sembra un secolo fa, sistema politico bloccato, la non vittoria, la non sconfitta. I grillini e l'antipolitica erano l'unica novità, elettoralmente anche poco distanti dal PD, ce lo ricordiamo, no? Una crisi economica spaventosa, ma senza sbocchi, cioè non c'era quella lucina in fondo al tunnel, paralisi istituzionale, no? E poi la legislatura costituente chiesta da Napolitano. Ecco, se noi guardiamo ad oggi, insomma, noi abbiamo alle spalle un anno di riforme fatte dal PD, dal Partito Democratico, cioè che è poi un campo aperto, fortunatamente, dal Partito Democratico. Cioè da una moderna sinistra riformista che finalmente sta facendo quelle riforme strutturali, da Job Act, la pubblica amministrazione, la giustizia civile, la scuola, poi si può dare qualsiasi giudizio sulle riforme. No, perché, anche però tu dici, il track record della differenza, diciamo, rispetto a come era iniziata la legislatura parla di per sé. Posso farti una domanda come direttore dell'unità di oggi? Ma invece accomunarsi ad altri che abbiamo tutti criticato e condannato, nei mettere al bando i titoli dei giornali più critici, anche questa è una cosa che difende? No, è stata una cavolata, ecco, non è stato un colpo di genio, cioè... No, ma guarda, non lo dico perché sono giornalista, io lo dico, per me ciascuno è libero, no, per carità di Dio, almeno me ne importa nulla. Può capitare, insomma, una cosa... Ecco, almeno. Allora, intanto ti fermo perché ci sono alcuni ascoltatori, almeno alcuni delle tante telefonate, sentiamo un po' cosa dicono. Francesco da Padova, Francesco, come la pensi? Pronto, eccoci, pronto. Eccoci. Colgo l'occasione per ribattere al signor Caldarola. Il PD ha fatto le riforme e forse anche nel verso giusto, ma tutte le riforme riguardano sempre lo 0, toccano sempre lo 0, su qualsiasi tema, sono dei minimi spostamenti che non sono quelli che fanno galleggiare l'Italia. L'Italia galleggia ancora dice in termini di crescita economica. Sì. Monti ha fatto delle riforme che intaccano la carne fino a vedere il sangue. Sì, ma... fino a far scorrere, come nel caso della riforma Fornero, esatto. Sì, appunto, ma anche quella sulla casa, altre. Invece Renzi fa delle riforme sempre dello 0, di spostamenti che sono dello 0, quelli non provocheranno mai né ripresa economica, mai niente di niente, sempre spostamenti dello 0. Allora, Francesco, rispettabilissima, però è un'opinione politica sull'intera parabola. Più che su segni di crisi o meno nella capacità di mobilitare risorse, di magnetizzarle intorno a sé, che è stata una roba di cui anche chi critica non può disconoscere a Matteo Renzi. Francesco ha un'altra opinione politica, e questo lo capisco. Mario da Milano, Mario che pensa? Allora, io sono sempre stato un elettore di centrodestra e Renzi mi piaceva anche molto e avrei cambiato casacca sinceramente. Ma io adesso, siccome non abbiamo detto cognome, lei lo ha votato alle europee? No, ah. No. Quindi era, diciamo così, disposto dopo a verificare se lo votarlo. D'accordo. Niente, io ho l'impressione che le riforme che siano state fatte non siano poi quelle strutturali. Qui bisogna cambiare la giustizia, bisogna cambiare il fatto che per avere 3 giudizi ci vogliono 18 anni, bisogna cambiare la situazione che per recuperare un credito ci vogliono 6 o 7 anni se va bene, e bisogna anche il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Io non conosco una quindi volta a oggi che... posso dire, perché è ovvio che se facciamo la lista non lo dica a me che ci passo l'intera vita a dire quello che bisognerebbe fare, però ho detto questo, a oggi se domani ci fosse tra due domeniche ci fosse un appuntamento elettorale con l'Italicum, lei lo voterebbe Renzi visto anche le controparti in, assolutamente nella... no. Allora io voterò 5 Stelle perché i miei figli votano 5 Stelle perché non hanno nulla da perdere, sinceramente quello che io ho da perdere votando o il centrodestra o la sinistra, sinceramente. Allora, non Mario, io le posso solo dire una cosa: non è un sondaggio, non ha nessuna attendibilità demoscopica. Ma se faccio la lista degli sms arrivati, quelli a stretta maggioranza, una maggioranza schiacciante, che hanno mandato un sms, sono, non vuol dire nulla, ma intanto è così, dell'idea che ci ha appena espresso il nostro ultimo ascoltatore. Io non dico nulla, ringrazio Peppino Caldarola, Erasmo D'Angelis, ognuno ha la sua opinione, continuate con Radio 24 ovviamente, con Sebastiano Barisoni che continua con i mercati, e domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milan, attenti a noi due.